Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa europea. Ci occupiamo come sempre di Europa e non trovate sia un vero sollievo non doversi invece occupare di politica italiana e del nostro ombelico. Diamo quindi questo sguardo all'Europa in particolare e comincio da Financial Times, da un articolo che è stato tradotto e che trovate nel numero in edicola da ieri di Internazionale, che si intitola La sfida di Martin Schulz. Vi leggo la prima parte. Martin Schulz, come sapete, è il candidato ex presidente del Parlamento europeo, si è dimesso prima della fine del suo mandato e tra l'altro è stato sostituito dal nostro Antonio Tajani perché si è candidato alle elezioni tedesche, politiche tedesche. La sua principale rivale è Angela Merkel e a sorpresa Martin Schulz, anche se è solo in campagna elettorale, solo da poche settimane, è, secondo alcuni sondaggi, in testa rispetto a Angela Merkel. E vi leggo la prima parte di questo articolo. L'economia tedesca è l'invidia di tutta l'eurozona. Nel 2016 la crescita ha toccato il valore massimo degli ultimi 5 anni e l'aumento delle esportazioni ha prodotto il più alto surplus commerciale del dopoguerra. La disoccupazione è ai minimi dalla riunificazione 1989. Buona parte di questi risultati possono essere attribuiti all'agenda 2010, la riforma del lavoro e del welfare introdotta nel 2003 dal governo socialdemocratico di Gerhard Schröder. Per questo il fatto che Martin Schulz abbia deciso di rimetterla in discussione è una scelta coraggiosa. Ricordiamo appunto che questa riforma del lavoro, che poi ha ispirato altre riforme del lavoro, forse in parte anche non ultimo il Jobs Act in Italia, costò in un certo senso a Gerhard Schröder la rielezione a cancelliere forse per questo, e alla fine credo che anche lui ne sia contento, in realtà verrà ricordato come un vero statista, perché come appunto vediamo, in una logica di lungo periodo e non di breve, che prevedeva la sua stretta rielezione, questa riforma ha fatto molto bene alla Germania. Ora appunto il Martin Schulz vuole un po' rivedere, perché ogni riforma, per quanto buona, invecchia. Nella politica tedesca, conclude Financial Times, c'è spazio per idee nuove dopo 12 anni di coalizioni guidati da Angela Merkel, che nonostante il suo impegno in campo internazionale ed europeo non ha avviato nessuna importante riforma interna. Il dibattito dovrebbe inoltre spostarsi dal pericoloso tema dell'immigrazione e dell'identità alle questioni economiche che contribuiscono al malcontento popolare. È l'unico modo in cui i partiti europei di centro-sinistra possono tornare credibili agli occhi dei lavoratori e reinventarsi come vere forze di opposizione o magari, chissà, di governo. A proposito invece di un altro tema molto discusso, non certo da oggi né da ieri, che è quello di internet come arma a doppio taglio. Da una parte ci connette tutti in modo più veloce, ci permette di accedere a tantissime informazioni in poco tempo, e però naturalmente c'è anche il pericolo che su internet ci circolino molte notizie che vere o almeno verificate non sono, il cosiddetto fenomeno delle fake news, che poi può addirittura appunto peggiorare in vere e proprie bufale che si trasmettono poi velocissimamente. E allora ho trovato molto interessante questo articolo pubblicato da Der Spiegel, che è un settimanale, uno dei due news magazine tedeschi, l'altro è Stern, significa lo specchio, tra l'altro Der Spiegel in tedesco, e questo articolo lo trovate tradotto sul sito di voxeurope.eu, che non smetterò mai di citare né di elogiare, perché appunto fa un monitoraggio lodevole, perché ha anche delle ottime traduzioni degli articoli che sceglie, un monitoraggio lodevole della stampa europea su questioni europee, e anzi della stampa internazionale su questioni europee. Questo articolo di Spiegel è intitolato «È ora di lanciare una TV pubblica europea». Mentre la propaganda ottiene più attenzione sui social network delle notizie vere e la politica si avvicina sempre più alla post-verità, altro termine che abbiamo coniato nel 2016, l'Unione Europea dovrebbe creare il suo canale di trasmissione televisiva per contrastare la diffusione di notizie false, per progettare insieme l'Europa e difendere la democrazia. Il problema è che appunto da una parte a volte gli slogan sono comodi da inventare, fanno presa più velocemente, capire, dare delle notizie, capire veramente la notizia e che cosa c'è dietro è più faticoso per chi le deve dare, da qui il ruolo che io credo ancora importante dei giornalisti come mediatori e da chi anche le deve avere la voglia e magari anche essere disposto a fare la fatica di approfondire. Vi leggo l'ultima parte di questo articolo di Spiegel: fondare una nuova azienda mediatica e attirare nuovi utenti da tutti i gruppi sociali e demografici in giro per l'Europa è certamente un'impresa colossale e ne siamo tutti consapevoli, ma la posta in gioco è alta. Si tratta dell'identità, della democrazia, della libertà e del futuro del modello europeo. Un altro articolo molto interessante che trovate sul sito voxeurope.eu riguarda lo sfruttamento sessuale delle persone, quindi la tratta anche di esseri umani, e come purtroppo spesso accade quando ci sono dei grandi crimini e quindi altrettante vittime, le donne e i bambini sono sempre più numerose. Da qui appunto il titolo di questo articolo: le donne sono le prime vittime. Lo sfruttamento sessuale è il destino più comune che attende le donne coinvolte nel traffico di esseri umani nei paesi dell'Unione Europea. Questo articolo lo trovate con alcuni dati agghiaccianti appunto sul sito di voxeurope.eu. Vi dico per esempio che secondo alcuni dati resi noti dalla Commissione Europea a maggio 2016, quindi recenti, oltre 15.800 persone nell'Unione sono state vittime fra il 2013 e il 2014 del traffico di esseri umani. Il 76% erano donne e il 21% erano minori. Lo sfruttamento sessuale sarebbe alla base del 67% dei casi, seguito dallo sfruttamento lavorativo. A ciò va aggiunto che la maggior parte delle vittime identificate, i presunti trafficanti di esseri umani dell'Unione Europea, sarebbero cittadini dell'Unione. Cambiamo un pochino argomento e torniamo sui giornali tedeschi, perché sapete, ne abbiamo parlato anche nelle puntate scorse, nei sabati scorsi, si è tornato a discutere di Grecia. La Grecia è stata due estati fa al centro di un piano di salvataggio, si era parlato di Grexit, molto prima che si parlasse di Brexit, e in quel caso era non come solo come per la Brexit l'uscita dalla moneta unica, ma proprio l'uscita dall'Unione Europea. Si è scongiurata questo distacco della Grecia dall'Unione Europea, e però non sono risolti i problemi economici della Grecia. E Klaus Regling, che è un economista tedesco, ha dichiarato alla Süddeutsche Zeitung, perché forse ricorderete che furono proprio i tedeschi, i cosiddetti falchi del governo Merkel, a opporsi a una politica troppo accomodante verso la Grecia, che di fatto a due anni di distanza risulta strozzata dall'austerity. E quindi Regling ha dichiarato alla Süddeutsche Zeitung: io conto sul fatto che dalla metà del 2018 la Grecia riuscirà a camminare con le proprie gambe e potrà procurarsi le risorse sul mercato da sola. La Grecia ha fatto progressi, concede il tedesco. Quando la crisi è iniziata il deficit era al 15,6%, ora è all'1%. Se i prossimi 18 mesi vengono impiegati bene, sono fiducioso che questo sarà l'ultimo programma che la Grecia deve fare. E vedremo, speriamo, naturalmente è un auspicio che tutti credo abbiano, cioè che la Grecia, pagato l'altissimo prezzo dell'austerity, possa appunto tornare magari persino a crescere come paese. Le Monde, a proposito di tutti quello che diceva Spiegel, cioè che bisogna stare molto attenti, e anche Financial Times, alla nascita di questi anti-europeismi e al convogliare di molti anti-europeisti in partiti populisti, cocktail pericoloso. A proposito di questo, Le Monde ha ospitato un intervento del commissario dell'Unione Europea, Pierre Moscovici, che dice: Marine Le Pen vuole uccidere l'Europa. Forse l'avrete seguita, la candidata all'Eliseo, quindi alle politiche francesi, che molti danno per vincente al primo turno, ma forse sconfitta al secondo, ma credo che gli eventi del 2016, in particolare la Brexit, l'esito del referendum sulla Brexit e l'elezione di Donald Trump, ci abbia insegnato che i sondaggi e le previsioni vanno prese molto, con molta cautela. In ogni caso, queste sono le previsioni, cioè che vincerebbe al primo turno ma sarebbe sconfitta al secondo, perché gli altri candidati si coalizzerebbero. Però qualche giorno fa ha tenuto questa conferenza che viene definita anti-euro, perché ha ribadito che nel suo programma c'è l'uscita della Francia dall'euro, e da qui la dichiarazione molto forte di Pierre Moscovici: Marine Le Pen vuole uccidere l'Europa. Moltissime altre notizie ci sarebbero. Per cambiare solo un attimo argomento, vi riporto su Internazionale, che ha pubblicato un interessantissimo articolo apparso su un giornale croato intitolato "Nei Balcani torna la tensione. Serbia e Kosovo sono di nuovo ai ferri corti, Macedonia e Montenegro sono in crisi, la Bosnia è spaccata. Nei paesi dell'ex Jugoslavia la situazione è tutt'altro che stabile e l'Unione Europea latita". Era purtroppo l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli, e per chi vorrà ci possiamo risentire domani verso le 7:15 per la rassegna stampa dei quotidiani italiani, non europei. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.